Allora, cominciamo questo incontro, grazie per aver sfidato il caldo, essere venuti in questo centro sociale. Io sono dell'Associazione Culturale Cantastorie Online che ha organizzato insieme al COX 18, la Calusca e l'Archivio Primo Moroni questo incontro. Praticamente la nostra associazione nasce da poco come associazione, però è diversi anni che ci interessiamo di tradizioni popolari, in particolare riguardo a quello che sono i cantastorie del passato e del presente. Sia Tiziana che Mauro e anch'io facevo parte di questa associazione, e approfittando del fatto che Mauro era qua a Milano, lui insegna a Messina e abita a Roma, abbiamo organizzato questa pomeridiana, anche per far conoscere un po' quello che è l'attualità nel mondo di cantastorie. Cioè, c'è lo stereotipo del cantastorie, quel cartellone che fa ballate di magari di ore rispetto... Oggi, chiaramente non è più proponibile. Il cantastorie di fatti in piazza non riesce più ad andare perché tra i rumori, la necessità di permessi, queste cose è diventato molto difficile, e poi sinceramente non si riesce più a vivere di questo tipo di... mentre fino a, diciamo, non molti anni fa c'erano diversi cantastorie che proprio facevano questo di professione. Quindi vogliamo così fare anche conoscere appunto una realtà piccola, però secondo noi importante, dove appunto non è più il cantastorie che racconta e informa come faceva in passato, ma diciamo che così interpreta e fa conoscere quelle che sono la sua visione di quanto avviene intorno, mantenendo sempre un occhio di riguardo per quello che è l'attualità, i fatti che avvengono, e li racconta in quella che di fatto ormai è la piazza virtuale. Cioè, già, Mauro ha un suo sito in cui potete poi trovare, oltre che conoscere un po' tutto il suo curriculum, potete trovare le sue canzoni. Tiziana è meno tempo che si sta dedicando a queste cose qui, quindi non ha ancora un suo sito, però ha messo cioè una pagina Facebook su cui... e diciamo il loro interesse appunto è di captare, intercettare quelle che sono un po' le situazioni reali. Per esempio Mauro, che è docente di antropologia, ha un occhio proprio anche da antropologo a quello che è le sue composizioni, quindi parla un po' di quella che è la realtà anche tecnologica in cui viviamo oggi, no? App, smartphone, diciamo, i pregi e soprattutto i difetti di questo tipo di comunicazione. Lui è tanti anni che diciamo, si occupa di queste cose. Appunto, la sua passione per il cantastorie è cominciata, credo, da bambino, quando nel 70 a Palermo c'era il Festival Folk con Aretha Franklin, Duke Ellington, e c'era anche Franco Trincale, che cantava L'orologio del dottor Guida, e poi sui fatti di Diavolo che erano appena successi, arrestato sul palco al volo, portato in questura e poi liberato e riportato subito perché si stava scatenando un po' la reazione del pubblico. Però questo è stato il suo impatto. Poi suo padre era un giornalista che riceveva appunto a casa i dischi dei vari cantastorie, che allora, soprattutto in Sicilia, erano numerosi e attivi, e quindi ha sempre sviluppato questo suo interesse. Poi c'è stato proprio qui a Milano l'incontro con Franco Trincale, che oggi non c'è perché, vabbè, poi vi dico, a parte che ha 89 anni e da un po' di tempo preferisce giustamente seguire sua moglie che è ricoverata in una RSA, una malattia degenerativa, per cui proprio vive praticamente in funzione di questa sua, e quindi ha abbandonato un po' quella che è la sua attività. Però fino a non molto tempo fa, proprio sul suo sito, potevate trovare delle sue ballate, perché comunque è sempre attento a quello che avviene. Ecco, poi tra l'altro coloro che frequentano un po' la Calusca conoscono sia... il nostro incontro è venuto in piazza Duomo, noi con la nostra telecamerina, lui con la sua, a filmare le ballate di Franco Trincale. Coloro che poi che frequentano un po' qui la Calusca li conoscono, perché la Tiziana ha fatto diverse cose, però insieme hanno fatto un intervento per quanto riguarda un'iniziativa che si chiama Tendopoli. Mauro ha tenuto una conferenza sulla letteratura albanese, visto che è anche un conoscitore di questa realtà, e quindi un po' li conoscete, però appunto in questa veste, soprattutto Tiziana, magari è la prima volta che appare in, con delle cose che ha scritto lei, perché appunto a differenza di Mauro, che appunto avendo fatto questa sua seconda attività ha vinto anche un premio come al concorso Giovanna Daffini, che si tiene a Villa Saviola in ricordo di questa cantante popolare, e ogni anno premia un cantastorie che presenta appunto brani inediti. Tiziana è da pochi anni che, diciamo, da quando è andata in pensione, anche se appunto con lei, io, lei e Mauro sono anni che seguiamo questo mondo, però prima dovevamo lavorare anche per fare altro. Abbiamo collaborato con questa rivista storica che è il Cantastoria, fondato nel 63 da Giorgio Vezzani, poi nel 2011 sono cessate le attività, più che altro è cessata la pubblicazione della rivista. Noi andiamo avanti appunto attraverso la rete, attraverso un sito, e cerchiamo di mantenere e di informare su quello che avviene nel mondo, non solo appunto di Cantastoria, ma soprattutto delle tradizioni popolari. Quindi, cioè, Tiziana ha cominciato a scrivere queste sue ballate, un po' per gli amici prima, poi qualcuno l'ha messa su Facebook, adesso così le ha raccolte in queste due chiavette, perché tutte e due, diciamo, anche Mauro ha raccolto una parte della sua produzione in queste due chiavette, che poi se qualcuno vuole averle come ricordo le può trovare lì al banchetto, o dire no, direttamente a voi, vero? Direttamente a voi. Vado via un po' veloce perché non voglio togliere spazi. Ma ecco, come dicevo, leggo solo 10 righe della presentazione che fa Mauro della sua chiavetta. Dice: le sue ballate sono frutto di osservazioni sofferte che vogliono essere un invito a soffermarsi, a riflettere attivamente e criticamente nel breve spazio di una canzone, sui pregiudizi, sulle mode, sulle ortodossie che ripropongono e impongono fiducia incondizionate nel nuovo tecnologico che avanza, in una scienza che si autoproclama intelligente e oggettiva. Una scienza che sputa sentenze e protocolli da un piedistallo conoscitivo, spacciato per naturale, ma che naturale non è, inficiato com'è di ingegnerie politiche, comunicative, affaristiche, che pretenderebbero liquidare, rigettandole nel ridicolo, le osservazioni dei cosiddetti utenti, tra virgolette, pazienti, clienti, così ridotti al silenzio, quali non addetti ai lavori. Le sue ballate vogliono invece mostrare come l'auto supposta innocenza e trasparenza della modernità e della tecnica, questo non esista. E questo appunto è un pezzo della presentazione della sua chiavetta. Tiziana, come dicevo, ha cominciato, diciamo, nel 2017 un po' a scrivere e a prendere la migliore tradizione dei cantastorie, le musiche che già esistono, e adattarci a cambiarle con parole, attualizzandole e cambiandole anche l'argomento, ovviamente, della canzone originale. Ha fatto un corso con Trincale nel 2005 di cantastorie, canta in due cori e appunto poi si diletta in questo tipo di attività. Detto questo, in maniera abbastanza veloce, proprio per non rubare spazio, pensando a questa iniziativa, conoscendo Franco Schirone, che conosciamo da diversi anni, che è un ricercatore storico del movimento anarchico, ha scritto diversi libri su vari temi come la resistenza, libri sull'utopia realizzata, giusto? Quella sugli movimenti pre-68 o giù di lì, e poi diversi altri. Ha curato la digitalizzazione di Umanità Nova, il giornale fondato da Enrico Malatesta. E apro una parentesi, il suo ultimo lavoro che potete trovare qui sul banchetto, che Il popolo tiranni più non vuole, sono i leggi e, come si può dire, l'eccezionale domicilio coatto in Italia a fine 800, verrà presentato venerdì alla Federazione Anarchica di Viale Monza, e poi penso si organizzerà anche qui, prima con Robertino si era parlato di presentare. Ecco, lui, diciamo, spazia veramente in tutto quello che è il mondo libertario. Allora, siccome come Cantastorie, come anche come associazione, questo rapporto non l'avevamo mai sviluppato. Cioè, nei canti anari ci sono molti canti da cantastorie o di cantastorie, però nessuno si era mai, diciamo, proclamato anarchico, almeno in maniera esplicita, se non un cantastorie negli anni 20, Alfredo Silvagni, che era proprio soprannominato Caserio, che verrà poi, si avvicinerà poi al Partito Socialista, diventerà vice sindaco di Bagnacavallo, che è un paese della Romagna, e poi verrà, subirà aggressioni da parte dei fascisti, quindi dovrà andarsene dal paese, si inventerà il lavoro di cantastorie e poi, finito il fascismo, ritornerà nelle piazze con canzoni sia contro il fascismo ma anche con altre, con la sua attività. Quindi è l'unico, diciamo, che noi sappiamo essere sicuramente si dichiarava anarchico, anche se poi, diciamo, poi si è avvicinato più al Partito Socialista, però di altri, eppure ci sono un sacco di fogli volanti che riguardano Passannante, che riguardano Bresci, che riguardano, cioè, tutti i personaggi che sono ricordati poi nella storia del nostro paese tra fine 800 e primi 900. Allora l'abbiamo coinvolto perché per vedere, appunto, se c'è qualcosa e si può conoscere un po' di più questa realtà che, appunto, anche per noi è sconosciuta. Quindi io gli lascio subito la parola a lui, poi dopo ci sarà Mauro e Tiziana che canteranno, quindi mi taccio, come si suol dire. Grazie. Bene. Sì, non lo lascio pure leggere. Avevo la stampante che non funzionava, come spesso accade, e ho dovuto portare il PC per poter fare la relazione. Allora, Claudio e Tiziana mi avevano chiesto, appunto, di parlare un po' rispetto ai canti anarchici, tutti quei pezzi che erano, come dire, riferenti a cantastorie sia anarchici che no, chiaramente. E allora ho fatto un po' una cernita e comincerei da un canto famosissimo, che è Dimmi buon giovane, che, diciamo, è entrato ormai nella tradizione, la conoscono tutti. Ecco, è un canto che negli anni 50 era stato rintracciato da Settimelli, ecco, ed è stato poi pubblicato per la prima volta in quei primi anni 60. No? Un canto interessante perché in un primo tempo, come dire, sembrava fosse un canto risalente al 1915-16-17, una voce anonima, non si sapeva chi l'avesse scritta, non si sapeva assolutamente nulla. In verità questo canto non è nato nel 1915-17, è addirittura del 1873. Due anni dopo la Comune di Parigi, tant'è che è stato rintracciato un foglio volante negli archivi di Pisa e per la prima volta l'abbiamo pubblicato nel libro che ho curato assieme a Santo Catanuto dei canti anarchici in Italia. È stato lì pubblicato per la prima volta. Un canto, questo del 1873, scritto da un anarchico internazionalista, Cantastorie a Pisa, e sarebbe anche interessante riuscire a rintracciare tutti gli altri fogli volanti che questo compagno ha scritto, insomma, ecco, perché è stato anche perseguitato parecchio, no? dalla Polizia di Stato in quel periodo, che è proprio il periodo più nero dell'internazionale, quando un passo che facevano venivano praticamente messi in galera. Ecco. E Francesco Bertelli si chiama precisamente questo internazionalista. Spendo due parole in più rispetto a sto canto perché mi sembra importante sottolinearlo. Quello che è stato rintracciato negli anni 50, in verità chi l'ha cantata si ricordava qualcosa, un po' così, insomma, ecco, no? Tipo, dimmi bel giovane, onesto e biondo. A un anarchico sentire queste cose lì, almeno a me, non convinceva molto. Non convinceva molto, come non convinceva molto il refrain che diceva: la casa è di chi l'abita, un ladro che l'ignora, il tempo è per i filosofi e la terra di chi la lavora. Ora, naturalmente è importante che in tutti quei decenni sia arrivato parzialmente questo canto, è importantissimo, è una cosa incredibile, bella, no? Però nel tempo sono state modificate le frasi, tipo, come dicevo prima, dimmi buon giovane, onesto e biondo. In verità è dimmi buon giovane, precisamente così giocondo. Quel così, dimmi buon giovane, così giocondo, in 80 anni è diventato onesto e biondo, da chi si ricordava male queste cose qua, no? Ecco. Come anche il refrain non è quello. Il refrain vero è: la casa è di chi l'abita, un ladro chi lo ignora, la terra per i filosofi è di chi la lavora. Cioè non c'è la divisione come conosciamo noi oggi, no? Il tempo è per i filosofi e la terra per chi la lavora. È una divisione. Nel concetto anarchico questa divisione non esiste. Lavoro intellettuale, lavoro manuale deve essere un tutt'uno. Ecco, questa è la pratica del pensiero libertario. Ad ogni modo, partendo da questo canto che si rifà, diciamo, all'esperienza della Comune di Parigi, è un botta e risposta, no, tra un vecchio comunardo e un giovane rivoluzionario. Botta e risposta, ed è molto più lungo il testo rispetto a quello che noi conosciamo. E questo è un primo approccio molto molto interessante. Sempre quel periodo lì, anni fine, anni 70 dell'Ottocento, va bene, abbiamo, come dire, l'atto di Giovanni Passannante, il primo, diciamo, a tentare di far giustizia di Umberto I. Giovanni Passannante era anche lui un rivoluzionario, un internazionalista repubblicano, lui era per la rivoluzione sociale sicuramente, e per una repubblica universale. Praticamente erano i primi concetti del nascente internazionalismo in Italia dopo la separazione con la componente mazziniana che c'è stata all'interno della prima internazionale. L'internazionale prima in Italia, ricordo, nasce nel 1872, quindi questi due primi canti sono gli inizi del movimento in Italia. E anche questo, sull'aria, diciamo, di una goliardica canzone del Risorgimento, va bene, si riferisce a Giovanni Passannante che è in carcere e c'è un desiderio, diciamo, da parte del popolo, almeno dei cantastorie, no? Un desiderio di una sua liberazione. Infatti su Giovanni Passannante ci sono, oltre a Fogli Volanti, va bene, abbiamo rintracciato anche altri canti, soprattutto nella regione in Puglia soprattutto, un canto in dialetto barese nella provincia di Bari, chiaramente, e un canto in dialetto tarantino nella provincia di Taranto, che abbiamo ripreso e fatto conoscere, molto, molto interessante. Lì, diciamo, c'è l'espressione del popolo per dire: Giovanni, non ti preoccupare, il re è morto, che poi non era vero, il re è morto, tu sarai libero. Era questa la concezione principale. Andando avanti nel tempo, siamo negli anni 80, a questo punto dell'Ottocento, abbiamo un personaggio interessante, Amilcare Cipriani. Amilcare Cipriani era stato tra i mille assieme a Giuseppe Garibaldi, bene, e dal garibaldinismo e dalle teorie, diciamo, mazziniane, per suo carattere passa poi nelle file dell'Internazionale e fino alla morte, insomma, sarà presente un po' in tutte le lotte. In tutte le lotte significa anche che lui è stato un personaggio di rilievo all'interno della Comune di Parigi nel 1871. Bene? Poi è dovuto, finita la Comune, scappare in Sud America, insomma una vita veramente avventurosa, è ritornato in Italia, è stato condannato all'ergastolo, insomma una vita dannata. Ecco. I socialisti a un certo punto, agli inizi del Novecento, l'avevano proposto, presentandolo come candidato protesta alle elezioni, ecco, questo è. Ma una roba piccolissima, no? Che un frammento di un canto, no? Su Cipriani, sull'aria della bionda di Voghera, che dice: l'amoretta alla stazione, sul treno se ne va a Porto Longone, Cipriani la va a trovare. Se ne va a Porto Longone, Cipriani la va a trovare, punto e basta. Non si è riusciti a rintracciare assolutamente il canto, diciamo, completo o originale. Arrivando poi a Sante Caserio, sempre verso la fine dell'Ottocento, di Caserio, si sa tutto. La cosa incredibile è su Sante Caserio nascono una marea di canti, soprattutto da parte di cantastorie, e sono cantastorie chiaramente non anarchici. Il motivo per cui, secondo il mio punto di vista, il motivo per cui sono nati così tanti canti su Sante Caserio dipende da due questioni fondamentali. Primo, l'odio in quel periodo da parte degli italiani nei confronti dei francesi, perché questi ultimi si erano resi colpevoli, va bene, di un eccidio di lavoratori italiani ad Acque Morte, praticamente in zona della Francia, dove periodicamente italiani provenienti soprattutto dal Piemonte, ma anche dal Veneto, si recavano per parecchi mesi a lavorare. Era nata una discussione da parte degli operai francesi, no? Era lanciata l'accusa che gli italiani rubavano il posto di lavoro a loro, ed è una nota questa che anche noi oggi, no? Conosciamo, no? Che gli extracomunitari rubano, dicono alcuni, gli innominati, che gli extracomunitari rubano il lavoro agli italiani. Ecco, la stessa cosa succedeva fino all'Ottocento in Francia rispetto agli italiani. Ne è nata una rissa, ci sono stati diversi morti. Questi sono i motivi per cui in Italia, possono essere motivi per cui in Italia c'è stata questa amplificazione dell'atto di Caserio, che è andato a uccidere Sadi Carnot, che era il presidente della Repubblica francese. Ma le motivazioni di Sante Caserio sono sì un riferimento ad Hague Morte, ma i riferimenti sono anche alla repressione che in Francia, che la Francia effettuava nei confronti degli anarchici e dell'utilizzo della ghigliottina contro di loro. Ecco, fondamentalmente. E quindi i cantastorie, fondano un altro motivo che rimarrà nei decenni successivi, perché tanti canti, anche del Novecento, inizio Novecento, anche quelli durante il regime fascista e la lotta contro il fascismo, va bene, ci saranno molti canti, non solo di cantastorie, che si rifanno alla cosiddetta aria del Caserio. Questa è una cosa importante da sottolineare. Il 16 d'agosto sul Far della Mattina, eccetera, eccetera. E poi, voglio dire, è una selva di canti. Abbiamo l'assassinio del presidente Sadi Carnot e gli ultimi istanti di Sante Caserio, che è noto anche come le ultime ore e la decapitazione di Sante Caserio. un altro tema è la canzone di Caserio, un altro tema ancora l'interrogatorio di Caserio, di Anonimo. Bene. Ecco, questo interrogatorio di Caserio è rimasto un po' nell'immaginario popolare, perché durante il processo, a domanda del giudice, c'è la risposta di Caserio, che vorrei velocemente leggere alcune battute di questo interrogatorio. Il presidente dice: accusato, la vostra fanciullezza era ben lungi da lasciar prevedere il vostro orribile delitto. Eravate laborioso e provo, però eravate impetuoso, spesso annuvolato e chiuso. Ora, bisogna sapere che Sadiq Carnot, quando era piccolo, nelle processioni della chiesa lì al suo paese, Motta Visconti, va bene, lui era preso, vestito da Gesù Bambino e portato in giro per il paese. Tanto era carino, tanto era bello. Tant'è che quando nasce la criminologia, no? Diciamo, i criminologi si inventano il reato di anarchico come dire, assassino, eccetera, no? Su Sadiq Carnot non potevano assolutamente trovare nulla, no? In tutti gli altri, chi aveva un occhio storto, chi aveva la gamba sipulina, chi era piccolo e nero, eccetera, eccetera, va bene? Su Sante Caserio non potevano dire, Cesare Lombroso sto parlando, non poteva dire niente, perché era perfetto, però una imperfezione Lombroso lo trova. Il lobo dell'orecchio destro era attaccato alla guancia. E questo lo definisce criminale anarchico, chiusa la parentesi. Allora, dicevamo, il presidente, no? E Caserio risponde: i ragazzi non sanno quello che fanno, commettono delle sciocchezze. Presidente, nel 92 foste arrestato perché facevate propaganda anarchica fra i soldati. Sì, signore. Nel 93 disertaste e rinnegaste, dopo la famiglia, la patria. La patria per me è il mondo intero. Avete frequentato certi anarchici ben noti a Milano? Se li avessi anche frequentati, non lo direi. La polizia lo sa, invece, vostra. La polizia fa il suo mestiere, io il mio. L'accusa pretende che frequentavate un parrucchiere anarchico. Non potevo andare da un fornaio a farmi tagliare i capelli. Siete italiano, era il 24 giugno, quella data non vi ricorda nulla? Che era San Giovanni Battista, festa del mio paese. Presidente, che era l'anniversario della battaglia di Solferino, dove il sangue italiano e quello francese sgorgarono insieme per la libertà d'Italia. Ecco, serio, io non ammetto la guerra civile. Il presidente: quale diritto avevate voi di uccidere il presidente della Repubblica? C'è una legge naturale che impedisce di uccidere. Caserio: i governanti però uccidono. E il presidente: non avete anche detto che se vi foste trovato in Italia avesse colpito il re e il papa? Risposta di Caserio: oh no, no, no, non escono mai insieme. Chiuso la parentesi. E così Caserio, anche un altro canto che passeggiava per la Francia, sono tutti canti, diciamo, di cantastorie, in giro per tutta Italia, addirittura tradotti anche nei diversi dialetti, no? della città. E ci sono diverse versioni di un unico canto, tra le altre cose. Va bene? Caserio, lui davanti al tribunale, insomma, Caserio ne ha a bizzeffe di canti. All'altro mondo, alla mattina presto suonano le campane, stornelli su Caserio, ecco. Un altro canto, sempre sul finire del 1800, anno 1896 siamo, va bene, altri canti, addio mio bella Carrara, sull'aria la sofferenza del carcerato in questa oscura cella, con anche qui in un paio di versioni raccolte a Carrara precisamente, dove è stato raccolto da un compagno, da Donato Landini, il 1 maggio del 1995, ecco, con due versioni. Scusa, non ho capito. audio, qualcosa sì. Versioni, sì, ci sono dei fogli volanti. Versione audio, poche, quelle che si conoscono più che altro, no? Il Caserio di Pietro Guri, no? E altri, così. Bene. E il mastio di Volterra è un altro aspetto importantissimo, perché riguarda il Batacchi, Cesare Batacchi. Anche lui era un internazionalista, ecco, nel 1875 esplode una bomba a una manifestazione di monarchici a Firenze. E naturalmente muoiono delle persone, vengono chiaramente arrestati un certo numero di internazionalisti e Cesare Batacchi e alcuni altri suoi compagni vengono incarcerati, no, dopo un immediato processo, così, con testimonianze che si sono poi rivelate negli anni successivi come false, tant'è che molti di questi accusatori, no, negli anni ritraggono tutto e dicono di aver detto, sono stati obbligati praticamente a dare quelle accuse nei confronti del gruppo di anarchici internazionalisti. Ecco, e quindi c'è stata una grandissima battaglia durata 30 anni sostanzialmente, no? Cesare Batacchi verrà finalmente liberato nel 1900, i primi mesi del 1900, e c'è questa famosa canzone dal titolo Il maschio di Volterra di Cantastorie, che racconta un po' realmente come è andata la storia del Batacchi e delle bombe di Firenze. E anche qui ci sono un paio di versioni che variano poco una rispetto all'altro. E siamo nel Novecento. Il Novecento si apre, come sappiamo tutti, con l'atto di Gaetano Bresci, vendicatore, Gaetano Bresci, no, vendicatore di tutti i morti che Umberto I ha portato avanti gli ultimi 10 anni dell'Ottocento, a iniziare, no, dal 1894 con la repressione dei molti siciliani, con l'organizzazione dei fasci siciliani, con la repressione dei moti della Lunigiana, i moti a favore, diciamo, di quelli della Sicilia, moti naturalmente per il pane, perché si moriva di fame, perché non c'era lavoro, ecco, e era questo fondamentalmente la molla che ha fatto scattare queste insurrezioni, questi moti. Per finire poi nel 1898 con le giornate di Milano e le cannonate di Bava Beccaris sulla folla che chiedeva pane, con gli 89 morti ufficiali e 500 erotti e feriti. Però questi numeri qui sono numeri, chiamiamoli cosiddetti ufficiali, quelli che la storia racconta. In realtà ci sono altre testimonianze che parlano di morti che non erano proprio 80, va bene, ma erano molti, ma molti, ma molti di più. Chi parla di 500, chi parla di 1000. Va bene? E questo era stato scritto anche su testi di socialisti dell'epoca. E su Gaetano Bresci succede un fatto particolare, no? E la monarchia assolda i cantastorie per poter cantare nelle piazze e canti contro il regicidio, contro, diciamo, il misfatto di Gaetano Bresci. Però nella realtà, pur essendoci tanti di questi fogli volanti, va bene, il popolo agisce diversamente, tant'è vero che si lamentano, e su Il Corriere della Sera addirittura per un lungo periodo c'è una pagina intera dove vengono citate tutte le scritte che appaiono sui muri a Monza, a Milano e nel resto d'Italia. E questa, diciamo, reazione popolare, ecco, che poteva reagire così come poteva, con la scritta sul muro, va bene, oppure con un viva Bresci gridato in spregio alla polizia, va bene, e dimostra tutti i vari, come dire, processi che ci sono stati nei confronti di questa gente minuta, diciamo, del popolo. Però naturalmente poi in America soprattutto nascono dei canti che elogiano in un certo modo l'atto del Bresci vendicatore di quello che Umberto I aveva combinato con le leggi eccezionali del 94, le cannonate di Baba Beccaris, le repressioni varie, perché è stato un decennio, quello dell'Ottocento, incredibile di quello che ne è stato fatto contro i militanti del movimento, diciamo, libertario e popolare. E quindi abbiamo anche il favore di Bresci, il canto di Bresci e altri. E un altro aspetto altrettanto importante, ai primi del 1909, abbiamo il Francisco Ferrer. Francisco Ferrer era un pedagogo libertario spagnolo, era un borghese di origine. E a lui era in mente l'educazione popolare. Aveva fondato la scuola moderna, varie sedi a Barcellona e nel circondario, ecco, e portava avanti, diciamo, una politica scolastica basata sul razionalismo e sul libero pensiero. E, naturalmente, in una Spagna in quel periodo lì, ma anche oggi si è molto cambiato, in quel periodo lì, inizio del Novecento, dove la Chiesa e lo Stato, il governo, erano un tutt'uno, queste scuole razionaliste davano molto fastidio, per cui hanno trovato la scusa in un momento preciso, nel 1908-1909, che ci sono state delle ribellioni da parte di giovani militari che costretti a partire per l'Africa a difendere o a occupare i territori spagnoli in Africa. Sono state delle rivolte, ecco, e Ferrer è stato, come dire, accusato di essere il fautore e quindi fucilato. No, in breve tempo ne hanno fatto il processo e lo hanno fucilato. La reazione popolare, non soltanto in Spagna ma soprattutto fuori dalla Spagna, è stata fortissima. E per fare un esempio, in Italia nel 1909-1910 a Torino, no? E in Piemonte in generale, c'è stata una mobilitazione, addirittura era stato organizzato uno sciopero generale di tutti i lavoratori contro quello che era successo in Spagna. E come reazione nascono altre scuole moderne in America e in Europa e in Italia. In Italia, in diverse città, nascono questi istituti chiamati scuole moderne. Nasce anche un periodico, una rivista dello stesso titolo, e naturalmente la storia di Ferrer viene presa veramente a cuore. Non è un caso che in quasi tutte le città d'Italia, fino all'avvento del fascismo, c'erano delle statue, ricordo, di Francisco Ferrer, sui muri, insomma, apparivano delle pietre che ricordavano, insomma, questo martire, chiamiamolo martire del libero pensiero. E su Francisco Ferrer, naturalmente, anche qui, non proprio però come nel caso di Santa Caserio, anche qui nascono fogli volanti di cantastorie che ricordano l'epopea di questo, ma addirittura Giovanni Pascoli, va bene, scrive un epigrafe per una lapide a Francisco Ferrer. La lapide dice testualmente: uno scoppio di fucili, ubbidienti ad un breve cenno di spada, da dentro una torva solitaria cinta di mura, e fosse, e che giorno nella scuola della terra, rimbombò nelle officine del mondo, e i pensatori levarono gli occhi dal libro, e i lavoratori alzarono il pugno dell'incudine e si volsero al tramonto, dove era l'abbagliore di fiamme ed odore di roghi. Francisco Ferrer era là, caduto in un tetro fossato, e gli uccisori incoscienti sfilarono avanti il cadavere insanguinato di colui che volle redimerli anche essi. Infelici, stringetevi uno all'altro avanti a questo martirio, o pensiero e lavoro umani. Quella che Ferrer non poté redimere con la parola, li redima col suo sangue. Questo è stata un'epigrafe di Giovanni Pascoli, che sapete benissimo, immagino che Giovanni Pascoli in un breve periodo di alcuni anni, da giovane, ha fatto parte della Internazionale. Ecco, però poi è diventato un grande scrittore, è diventato tutt'altro, no? Socialista e poi tutt'altro ancora, ok? Questo Ferrer. Un altro fatto importante, e qui siamo, come dire, nel 1911-12, l'Italia che voleva conquistare dei territori in Libia, va bene? Questa mobilitazione nazionalista di conquista, c'è stato un atto di un soldato, di un anonimo soldato, si chiamava Augusto Masetti, che a Bologna, mentre il suo tenente incitava i militari li preparava per andare in Libia, Augusto Masetti spara al militare, non muore, ma lo ferisce abbastanza gravemente. Chiaramente viene rinchiuso in un manicomio criminale, e negli anni successivi ci saranno molte mobilitazioni, soprattutto da parte dei sindacalisti rivoluzionari, in una, come dire, rispetto all'antimilitarismo, che chiedevano la sua liberazione. Anche qui sono stati dei cantastorie che hanno, come dire, ricordato il soldato Masetti. Ecco. E poi nel 14 l'eccidio di Ancona, dove Cantastorie raccontano gli avvenimenti del 7 giugno 14, che è l'inizio della Settimana Rossa. Cioè dal 7 al 14 giugno 1914 Ancona si ribella contro l'invio di militari in Albania. Ecco. E poi un fatto, questo drammatico, quello dei fatti del Diana a Milano del 1921, laddove un gruppo di anarchici individualisti mette una bomba al teatro Diana di Porta Venezia, qui a Milano Porta Venezia, perché sapevano che lì, oltre a questo teatro, era anche un albergo, no? Che lì resideva e dormiva il questore Gasti di Milano, che era il persecutore degli anarchici. Sta di fatto che tutto questo non era per niente vero, Gasti non abitava lì da tempo, ecco, e mettono questa bomba che fa un macello praticamente, e da lì nasce la repressione. C'erano lì già pronti, no, i fascisti, 5 minuti dopo lo scoppio del Diana erano già pronti i fascisti, va bene, che hanno invaso e incendiato la sede dell'Avanti e la sede di Umanità Nuova, che si trovava lì a 200-300 metri dal Diana, in via Goldoni numero 3 a Milano. E naturalmente, oltre a queste due sedi politiche di giornali, no, hanno invaso e distrutto anche la sede sindacalista rivoluzionaria dell'Unione Sindacale Italiana. Per cui, no, c'è il gioco che questi anarchici sono stati beffati sostanzialmente, perché conoscevano polizia conosceva quello che stava per accadere. E ad ogni modo questo atto ha decretato la morte, diciamo, del movimento libertario, non solo a Milano. E con l'avvento del fascismo altre situazioni molto importanti si sono verificate in Toscana e in Firenze, soprattutto nella zona di Firenze, con la banda dello Zoppo. La banda dello Zoppo era formato da un gruppo di fratelli e poi un gruppo di sindacalisti rivoluzionari e anarchici che si sono opposti al fascismo nascente e hanno fatto delle azioni contro il regime. Poi sono stati presi un po' tutti quanti. Ecco, e la cosa importante per i cantastorie è stata che i partecipanti alla Banda dello Zoppo, alcuni di loro, sono riusciti ad evadere dalle galere e scappare e non farsi trovare per parecchio. E questi erano precisamente i fratelli Scarselli, che tra l'altro una decina di anni fa era stato pubblicato un libro proprio sulla storia di questa banda dello Zoppo. E vediamo un po' all'estero, no? A Parigi negli anni 26 c'è una sorta di concentrazione di antifascisti, non solo libertari, ma un po' di tutti i movimenti e i partiti della sinistra. Tra gli anarchici che stampano tutto il periodo, diciamo, del ventennio all'estero, stampano una novantina di testate anarchiche, per lo più poi clandestinamente fatte entrare in Italia come informazioni. C'è stato un giornale, una sorta di rivista, un numero unico dal titolo La Quale, che diciamo era un giornale che prendeva in giro un po' gli uomini del regime e soprattutto quegli uomini del regime che erano andati in disgrazia e che si trovavano anch'essi esuli in Francia, tra cui uno che aveva partecipato all'assassinio di Giacomo Matteotti. Allora, in questo giornale ci sono delle ballate da cantastorie, no? Ricordando questi individui, ecco, e prendendoli un po' in giro. Poi è uscito un solo numero, tra l'altro era stato pubblicato da Tintino Rasi, che era un personaggio dell'anarchismo piuttosto noto all'epoca. Sacco e Vanzetti negli anni 20-27. Sacco e Vanzetti è stato un altro momento importante di cantastorie che ricordano il caso, e di questo lo sappiamo un po' tutti quanti, e sempre sull'aria, pensate, di anonimi cantastorie su Aria delle ultime ore e la decapitazione di Sante Casserio, 23 d'agosto in Boston in America. Sacco e Vanzetti sopra la sedia elettrica ed altri numerosi fogli volanti, addirittura uno in dialetto napoletano, ecco. E questo è stato inciso, questo canto in dialetto napoletano è stato inciso su un disco nel 1927, se non sbaglio della Durium, ma non ne sono certo. Io ce l'ho quel disco lì, l'ho trovato nel... sai, quando vai a scartabellare nei mercatini delle pulci, trovi tante di quelle cose bellissime, proprio bellissime. Come anche un canto su Casserio, che tra l'altro erano stati incisi in quegli anni lì, negli anni, inizi anni del Novecento, e poi messi al bando dal fascismo. Tutta una serie di canti su Casserio, su Sacco Vanzetti e altri erano stati messi al bando, e su questo bando ci sono diversi scritti che raccontano, no? Quali sono, c'è l'elenco di libri e di dischi. E arriviamo ai nostri tempi, no? Piazza Fontana, la morte di Giuseppe Pinelli. Anche nel caso di Giuseppe Pinelli si ripete quel grosso volume di canti non solo di Cantastorie, sull'assassinio di Giuseppe Pinelli, sulla strage di Piazza Fontana. Franco Trincale è uno dei più importanti personaggi Cantastorie, che ne ha cantato la storia, diciamo, di Piazza Fontana. Ricordiamo Lamento per la morte di Giuseppe Pinelli, va bene. E poi ci sono anche altri canti, la strage di Milano, sempre conosciuta anche come Ballata per la morte di Pinelli, in questo caso scritto da Silvano Secchiari, un anarchico, un pastore anarchico, Cantastorie di Carrara. Lui e i suoi fratelli, erano tre o quattro fratelli, più altre sorelle, una famiglia molto numerosa, loro facevano i pastori, ecco, e poi oltre ad essere Cantastorie, cosa hanno fatto oltre al canto su Pinelli? Dopo la liberazione loro hanno cantato tutte le gesta, no, dei carrarini, no, che si erano mischiati con i fascisti, no? E quello che avevano combinato nei confronti degli antifascisti, con nome e cognome, con nome e cognome di tutti, no? E questo è scritto anche, l'abbiamo pubblicato anche sul libro, La strage di Milano. Poi sempre Trincale, che parla dell'orologio del dottor Guida, un altro canto che si riferisce al questore Guida. All'epoca del Piazza Fontana era questore di Milano, e sapete benissimo anche che Guida è stato, no, il questore, il direttore, anzi di Ventotene, dove erano detenuti gli antifascisti. Non è un caso, dice anche Sandro Pertini, non è un caso, e lo voglio ricordare, che quando Pertini era Presidente della Repubblica, è venuto a Milano, va bene, e c'era tutta la marmaglia dell'intelligenza milanese, ecco, dando la mano ai vari personaggi, quando è arrivato davanti a Guida, ha fatto finta di non vederlo ed è andato avanti. C'è il rifiuto da parte di Sandro Pertini a stringere la mano a questore Guida, che era stato il suo carceriere a Ventotene nel 1900, fino al 1943, quando poi sono stati liberati quasi tutti. Sono stati liberati prima i democristiani, poi i socialisti. Gli anarchici li hanno lasciati lì. Li hanno liberati dopo alcuni mesi, ma non li hanno liberati. Li hanno presi e portati, deportati, no, a Redici d'Anghiari, in provincia di Arezzo, in un campo di concentramento con gli zingari e gli slavi. Ecco, questo era Guida all'epoca. Marcello Guida, questore di Milano, quello che disse a proposito di Pinelli: non l'abbiamo ucciso noi, quando nessuno gli ha chiesto chi l'ha ucciso. L'ha detto autonomamente: non l'abbiamo ucciso noi. Ok. Sempre Trincale, Valpreda è innocente, e poi altri cantastorie come Angelo e Vincenzina Cavallini di Milano, che cantano Piazza Fontana del Dolor, l'infame strage di Piazza Fontana. Sempre Trincale per un altro caso di un anarchico, Giovanni Marini. Giovanni Marini era stato oggetto, diciamo, si era scontrata con dei fascisti a Salerno, va bene? I fascisti avevano i coltelli in mano. Marini è riuscito a prenderne uno di coltelli dell'assalto fascista, e uno di questi è rimasto ucciso. È stato condannato ad anni di galera, è stato liberato dopo 12 anni. Franco Trincale ne canta il titolo Le ragioni di Giovanni Marini. E finisco con un'ultima cosa, un canto su Maria Occhipinti che ferma ogni guerra. Gli autori sono loro due, lei l'autrice, tu la musica, certo, un aiuto, è importante. Speriamo che il pezzo finale di questa serata... È il pezzo finale, allora ho intuito bene, perfetto. Ecco, Maria Occhipinti era una donna di Ragusa. Tra l'altro è uscito negli anni 70 un libro dal titolo Una donna di Ragusa, e poi ultimamente è stato ripubblicato da l'editrice di Palermo, come si chiama l'editrice, ti ricordi? Fiaccola. No, La fiaccola è stata la prima. Vabbè, comunque è stato ripubblicato Sellerio, sì, bravissimo. È stato ripubblicato questo libro qui. È stata un'attivista, prima era del Partito Comunista, Maria Occhi Pinti, che pian pianino si è avvicinata poi al Movimento Libertario e ha collaborato moltissimo con gli anarchici di Ragusa. E lei è stata l'iniziatrice delle proteste contro la guerra, ecco, e questa è stata una storia molto importante che la sentiremo cantare. Mi fermo qui perché sono andato oltre il tempo necessario. Grazie. Aspetta, dico due cose, poi vi lascio. Intanto ringrazio Franco per questo, che non è stato un intervento, ma credo una lezione interessante e storica, che ha aperto, squarciato un velo appunto su quella che è l'attività dei cantastorie, che appunto in quei tempi, diciamo, informavano e raccontavano quello che era successo, dove potevano, perché parte di quelle che ci ha raccontato anche Franco, in Italia durante il fascismo era difficile cantarli, però venivano riportati nell'esilio e fatti conoscere. E quindi si sono tramandati e sono arrivati fino a noi. Quindi grazie veramente per questo intervento. Adesso passiamo alla parte musicale con Mauro e Tiziana. E poi vi ricordo che c'è quello che noi abbiamo chiamato un aperitivo rinforzato, dell'ordo, delle torte salate, dei dolci, insomma, per chi vuole fermarsi e poi avviare così un momento conviviale per chiedere magari anche delle cose che sono... Infatti mi chiedevo cosa significava aperitivo rinforzato. Bene, tanto grazie, poi ci spostiamo, lasciamo libero qua il table. Questo quando loro cantano senza. Se vuoi cantiamo senza microfono, perché tanto siamo qua tra amici e ci piace così. Allora abbiamo visto l'importanza dei fogli volanti e dei cantastori che hanno avuto nella storia. Questa funzione l'hanno ancora adesso, quella non solo di informare, ma anche di riflettere sugli avvenimenti anche, e sull'attualità di questi avvenimenti anche. Io inizierei con il primo canto dedicato a un sindacalista della logistica dei Sicovas che si chiamava Adil Belatrine, è ucciso durante un picchetto all'arrivo di Andrate, che è stato ucciso davanti ai cancelli, praticamente un camion lo ha travolto e ucciso volontariamente. L'incidente è stato derubricato a incidente stradale, e quindi quest'uomo che aveva 37 anni, papà di due figli, che si batteva contro lo sfruttamento bestiale degli algoritmi nella logistica, è stato ammazzato due volte, una volta dal camionista e l'altra volta dalla magistratura complice. Allora io, come il cantastorie, ho fatto questa canzone dedicata a lui, sull'aria della povera Giulia, che è un canto della tradizione. Ready? 26 anni, è morta carbonizzata nella baraccopoli di Rosarno. E io nel 2021 ho scritto questo canto nella giornata della violenza di genere per parlare di questa donna che aveva intrapreso un percorso a Riace con Mimmo Lucano e aveva anche presentato i suoi documenti, i carti di identità e tutto, e per questioni burocratiche è stata respinta. Lei, per paura di essere rimpatriata in Nigeria, dove era scappata, è andata a finire nell'inferno di Rosarno. Mimmo Lucano è stato inoltre denunciato proprio perché aveva richiesto di prolungare l'accoglienza a questa donna. E quando poi è morta carbonizzata, ha preso i suoi resti e l'ha riportata a Riace, dove oggi riposa. Il canto si intitola Becky Moses. Thank you.

In questo canto ho fatto riferimento anche al gruppo di coro morto nelle carceri turche nel 2020, lo Yurum Group. Mi ero riferita anche a loro perché è una situazione simile. Giuro che farò anche una cosa piuttosto allegra. Adesso faccio questa la vicenda delle ultime ore del naufragio di Cutro, perché nello stile dei cantastorie appunto questi fatti eclatanti che hanno scosso l'opinione pubblica, nella tradizione ci sono sempre stati. E ho intitolato questo canto Le ultime ore del barcone, l'orrore del naufragio di Cutro. Dalle coste di Turchia, in 200 sul barchino, padri e madri disperati, aggrappati al suo bambino. Una barca fa nel buio un appello disperato, tra le onde alte lancia il suo grido inascoltato. Quelle urla delle madri di dolore e di protesta, chi doveva dare aiuto ha girato la testa. Ucciderli non è stato onde, mare, forza, sete, ma persone disumane dallo Stato protette. Non salvare le persone in pericolo di vita è un crimine efferato, una colpa inaudita. Siamo stufi di contare morti e stragi sulle coste, basta anche a leggi oscene che puniscono chi soccorre. Si potevano salvare, sono forse più di 100, ma i burocrati e lo Stato hanno fatto questo scempio. Quel ministro svergognato dice se la son cercata, ste parole come pietre si rovescino a cascata. Quei cadaveri distesi sulla spiaggia di Crotone, dalla guerra son fuggiti, da fame e disperazione. Se l'Europa e l'Italia diventassero più umane, basta stragi e naufragi, ma accoglienza solidale, basta stragi e naufragi, ma accoglienza solidale. Quella allegra, giuro che la faccio. Sì, nella mia raccolta. Diciamo allegra. No, no, non è questa, perché ho inserito un'altra un pochino più così simpatica, se vogliamo. Nelle mie poesie, canti, così, ho inserito temi di attualità, temi politici e anche la mala politica. Questa, per esempio, parla della pitonessa santa. che tutti conoscete. Con la bancarotta e il bilancio truccato, ti presenti spavalda davanti al Senato. Le unghie ad artiglio, vuoi sembrare sincera, o pitonessa in camicia nera. Ai ai ai ai, confessa allora, con le bugie ti fai milioni, tuo grande maestro, il fu Berlusconi. Son tutti capaci di fare impresa, coi soldi non tuoi non far l'offesa. Le banche ti danno i milioni, diffido i milioni, com'è che a noi tutti ci mangiano i calzoni? Ai ai ai ai, che gran magnata, con la chi e la visibilia, copri i tuoi debiti, ma che meraviglia. Con la Maserati, vacanze romane, passi col rosso e ti fai rimborsare. Seguendo i tuoi passi si trova la truffa, tanto al Senato ti copre la russa. Ai ai ai ai, potere alla famiglia, sorelle, cognati e il finto principino, più che un governo c'è pare un casino. Intanto qua giù si mangia di meno e sul carrello si piange davvero. Coi prezzi alle stelle si ascolta il glu glu delle budelle. Finirà tutto all'italiana, la casta si assolve, nessuno paga. La forbice sempre più larga, tu in Maserati, noi nella cacca. Ai ai ai ai, confessa allora, con le bugie ti fai milioni, tuo grande maestro, il fu Berlusconi. Allora, adesso ho esposto la kefia e farò questo canto contro la guerra e in appoggio, in solidarietà con il popolo palestinese. Dopodiché lascio la parola a Mauro, che ringrazio per il sottofondo musicale, e poi avremo modo di conoscerlo. Questo canto l'ho fatto nel novembre del 2023, cioè l'anno scorso, e parla della kefia, che è simbolo della solidarietà con il popolo palestinese. Kefia simbolo di Palestina, kefia popolo che resiste, kefia volto di terra annegata, kefia icona di lotta disperata. Quante marce ho fatto per Gaza, tanti slogan la kefia agitando, il diritto ad avere una terra, Palestina, miraggio sognando. Ci sono tanti modi di uccidere, di negare il diritto alla vita, ammassare la gente in un ghetto, sotto le bombe, senza acqua e né tetto. La più grande prigione del mondo, costruita è in Palestina, dei civili e bambini a Gaza, un'immensa carneficina. Genocidio di un popolo invaso, a cui hanno negato la terra. Non c'è spazio per la ragione, a parlare solo la guerra. E adesso che stiamo a guardare, spettatori inebetiti, osservando lo sguardo in aria, la catastrofe umanitaria. In questa striscia di terra perduta si concentra l'idea più bestiale, contrapporre il nostro Occidente contro tutte le forze del male. Israele vuol cambiare la storia, bianco-nero pensiero binario, confondendo cause e conseguenze, lotta sociale e terrore incendiario. America e grandi potenze, sempre unite per soldi e potere, agitando lo spettro di sangue di una guerra senza frontiere. Quel che resta di Gaza oggi sfugge ad ogni immaginazione. Terra martire di resistenza rubata all'eroica popolazione. Non risparmia né madri né figli, inumana è ogni guerra. Palestina e il suo popolo distrutti per pochi chilometri di terra. Per un attimo vorrei sognare e pensare a un mondo senza armi, non più morte per popoli inermi e per pochi enormi guadagni. Quella kefia che porto ancora non la butto, questo è sicuro. La sua lotta da noi, la speranza che in Palestina ci sia pace in futuro. La sua lotta da noi, la speranza che nel mondo ci sia pace in futuro. Con questo vi ringrazio e queste cose, tutti questi argomenti sono la prova che anche il Cantastoria oggi è molto attuale e che andrebbe valorizzato maggiormente. Grazie. Grazie a te. Io sono veramente emozionatissimo perché è un percorso che inizia nei primi anni 90, ma forse mi sentono, se io, più, meno si, cioè, allora qua su queste cose si incentra, diciamo, la contraddizione dei cantastori di cui voglio parlare prima di fare alcuni pezzi di questa chiavetta USB mia che si intitola L'insostenibile leggerezza dell'app, storie di fallite modernità. Invece le ballate che ha fatto Tiziana sono raccolte in una bellissima chiavetta che lei ha prodotto contenente 30 ballate e chiavetta che è disponibile è con un piccolo diciamo così omaggio, cioè per la produzione, direttamente rivolgendosi per la sua chiavetta a lei e per la mia chiavetta L'insostenibile leggerezza dell'app direttamente a me. 30 ballate di più stretta attualità, si va da Cutro a ai problemi del lavoro, ai morti sul lavoro, alla politica, alla mala sanità, insomma ci sono tutta una serie di tematiche d'attualità. Dico, la storia è lunga, risale agli anni 90, quando io, già diciamo così appassionato ma anche studioso dei poeti cantastorie, in particolare del sud, leggevo tantissimo la rivista, la gloriosa rivista Il Cantastorie, rivista di tradizioni popolari, che uno dei miei maestri, anche se non mi sono laureato con lui, l'etnomusicologo Diego Carpitella, che ha scritto di cantastorie nel 61 in un bellissimo libro intitolato Un secolo di canzoni, Fogli volanti, un secolo di canzoni, e addirittura faceva portare agli esami e aveva acquistato per la biblioteca di etnologia della facoltà di lettere della Sapienza. Leggendo Il Cantastorie cominciai a leggere i primissimi articoli di Tiziana e di Claudio, ancora non li conoscevo, sarà stato il 93-94, e tra questa una intervista in due puntate che loro fecero proprio a Franco Trincale, che io già però già negli anni 60 avevo conosciuto, cioè perché lo conosceva mio padre, perché era giornalista di musica, perché mio padre mi portò al Festival Pop 70, ricordato prima da Claudio, dove c'erano 80.000 studenti, un clima stupendo, e mio padre mi disse: questo giorno te lo devi ricordare per tutta la vita, 17 luglio 1970, dovevano esserci i Beatles, ma c'era Zeppelin, c'era Frank Zeppelin, c'era Led Zeppelin, c'era Arthur Brown, c'era Giuni Russo, c'erano i Ricchi e Poveri, c'era Rosa Baristrelli, c'era Aretha Franklin, dovevano essere i Rolling Stones, insomma una cosa... venne cacciato via, gli spense il microfono alle 7:30, gli studenti facevano come i pazzi, dice: ma che fine ha fatto? L'hanno arrestato, per far vedere che non l'avevano arrestato, perché aveva cantato Nixon Boia e aveva cantato la ballata del Pinelli, lo fecero riuscire alle 11 di sera, e sul palco c'era Duke Ellington con 250 strumentali. Duke Ellington lo abbracciò a Trincale proprio davanti a tutti e fece così all'orchestra, che in coro intonò Nixon boia, e tutti gli studenti: via le mani dall'Indocina, via le mani dal Vietnam. Cioè, non si è mai più fatto. Unico, su questo Festival Pop 70 è stato scritto un libro da un giornalista dell'Ora di Palermo che si chiama Sergio Buonadonna, quando Palermo pensò di essere Woodstock, è pubblicato da Navarra Editori. Allora ho letto la loro intervista a Franco Trincale, ma anche leggendo Il Cantastorie mi rendevo conto, e lo ha dimostrato, che lo ringrazio tantissimo, Franco Schirone, veramente per la bellissima relazione che ha fatto, puntando proprio l'attenzione verso la modernità, verso l'attualità, verso la contemporaneità. Il Cantastorie che narra degli anarchici, che narra dei contrasti politici, che narra delle denunce, e viceversa certe volte non è sul presente ma addirittura sul futuro. Cioè, mi diceva Franco Trincale, io certe volte quando vado in piazza, ancora la ballata non l'ho finita di scrivere, la scrivo direttamente sentendo le persone, e cerco di scrivere anche quello che secondo me i fatti contemporanei possono sviluppare nell'immediato futuro. Da qui il rapporto tra cantastorie e divinazione e magia, che è strettissimo. Orazio Strano scrive un libro di erboristeria, era diventato il padre di Ciccio Busacca faceva l'astrologo e faceva la pubblicità nei libretti del grande Ciccio Busacca. E lo stesso padre di Trincale, anche lui era astrologo. Insomma, c'è un rapporto tra un gusto dei cantastorie per il presente ma anche per il futuro. L'unica cosa che non c'è, ma che a tutti i costi ci vogliono imporre, è il gusto del passato. Per cui il cantastorie va bene solo se canta la baronessa di Carini, solo se canta Pia dei Tolomei, solo se canta la leggenda di Ace e Galatea, Omero, il vecchio cantastorie. Ma questo è un tale stereotipo che vi racconto solo un fatto brevissimo. Cioè, negli anni 2000, verso il 2010, la RAI con il regista Marco Amenta decide di fare un documentario su Rita Atria, questa bravissima ragazza 17enne che non ce la fa più di avere questi due genitori, uno più mafioso dell'altro, di Partanna, provincia di Trapani, e decide di denunciare i genitori. Va alla polizia e denuncia i genitori per mafia. A quel punto la Rita Atria se ne deve scappare, perché donna che ha denunciato i genitori e per mafia, e infatti se ne scappa. Va a Palermo, la intercetta Borsellino, che le cambia l'identità, la fa andare a Roma, ce la mette in un... perché rischiava di essere praticamente ammazzata. dopo Rita Atria, poi dopo la morte di Borsellino, pur essendo provate, hanno provato ad ammazzarla, Rita Atria praticamente si suicida gettandosi dal balcone all'età di 18 anni. Su questa storia Vito Sant'Angelo, grande cantastorie di Paternò, aveva scritto la storia di Rita Atria, e ogni giorno la cantava negli autobus a Messina, nei bar, nelle piazze, aveva fatto il CD, vendeva il foglio volante. La RAI decide di fare un documentario, sa che Sant'Angelo aveva scritto questa storia, va a Paternò e lo assolda, dice: noi stavo facendo questo film, storia di una siciliana ribelle. Benissimo, Sant'Angelo contentissimo ci sta, ma lo piegano all'interno di un cliché cinematografico passatista, arcaicizzante, per cui lo riprendono mentre canta sul tramonto, sul castello di Paternò, che nessun cantastorie ci ha mai cantato perché non ci passa mai nessuno. Col tramonto, gli mettono un cilindro, gli fanno cambiare la giacca, addirittura gli hanno, siccome si era fatto una protesi dentaria qua davanti ed era secondo loro troppo lucida, gliela scuriscono, gli accentano le rughe. E lo fanno cantare sull'orlo di un tramonto, perché non esiste un cantastorie che canta la contemporaneità. E invece la storia raccontata da Franco dimostra esattamente il contrario, cioè come i cantastorie siano, io non sto qui a recitare l'elogio del microfono, perché Vito Sant'Angelo, una delle prime ballate che scrive è un atto di amore nei confronti del microfono: ti amo quando ti vedo con i fili che si intrecciano sotto il palco per me, perché rappresentava il mezzo per farsi sentire a tutti, il culto, ma anche Trincale che si fa ai siti, e c'è un'attenzione verso una modernità che invece non lo premia. Cioè uno, il cantastorie come portatore di modernità si scontra con una modernità che invece o non lo chiama, o lo passatizza, lo arcaicizza, oppure lo estromette. Io potrei raccontare, lo censura, come quando Trincare è stato censurato a Rai International, e ce l'ho io presente a Firenze per aver cantato Craxi al Marinaio. Insomma, c'è una storia di negazione della modernità, e invece con Tiziana e con Claudio abbiamo condiviso fin dalle origini, perché poi li ho incontrati a Milano, io venivo qua per giorni interi, mi ospitava Trincale e riprendevo i suoi spettacoli di piazza, ma anche nei concerti, ma anche le lettere, ma anche i carteggi, ma anche il modo di concepire, cioè la filosofia. Io mi ricordo anche in campo antropologico, negli anni '80 l'antropologo cirese a me non mi fece fare la tesi sui cantastorie, per cui, anche se la letteratura era molto scarsa all'epoca, proprio per questo, perché dice: sono troppo ibridi, sono troppo moderni. E no, noi invece studiamo l'antico, l'arcaico, il contadino autentico, il folclorico. Io ho detto: ma a me mi interessa proprio questo, mi interessa quando il folclorico, quando un cantastorie c'ha da un lato i braccianti e dall'altro fa libri con la prefazione di Leonardo Sciascia, cioè con Carlo Levi che abbraccia Ciccio Busacchi, entra nella cinematografia di Blasetti, nella cinematografia di Martin Scorsese, Orazio Strano, i fratelli Taviani, il loro primo film che fanno, ci mettono Busacca sul sindacalista Turiddu Carnevale, socialista, ucciso dalla mafia. E questa modernità invece anche gli stessi antropologi la negavano, perché è una specie di riscatto questo. E noi non facciamo un CD, facciamo una chiavetta USB, che è un avanzamento, un aggiornamento. Esatto, però questa modernità, dico, magari avesse partorito piazze libere, cantastorie libere di cantare. E spesso questa modernità ha partorito strumenti tecnologici come il telefonino, come lo smartphone, cioè che magari alcuni dicono essere utile, anche se il concetto di utile è un concetto molto pericoloso dal punto di vista proprio filosofico, ma che ha in sé delle potenzialità che le vedremo. Io ho appena scritto qualche mese fa una ballata che si intitola Video dall'inferno. L'ho messa sul sito con una immagine tutta nera, perché non sono riuscito a trovare le immagini per concepire quello che è successo. La storia di questi 22 diciottenni, 17enni, 18enni che si riuniscono in un agriturismo vicino Roma, vicino Anagni, in un agriturismo, quindi luogo di amore nei confronti della natura, nei confronti degli animali, delle piante, e si avvicina a una capretta. Questi cominciano a scherzare, ammazzano questa capretta che cade sotto un muretto agonizzante, filmano l'agonia di questa capretta e la mettono sui social. Cioè, una capretta ammazzata per essere filmata. Allora io mi domando: ma questa è la modernità? Forse che dice: ma sono tutti pazzi. Ma non erano pazzi, perché erano 22 22, e poi le spiegazioni. Vabbè, ma ci arriviamo perché la faccio come seconda. La prima che ho scelto è una recentissima, la penultima, perché l'ultima l'ho fatta sul ponte, sullo stretto, ma la farò più avanti alla fine. Questa si chiama Scarica l'app, perché c'è qualunque cosa, scarica l'app. C'è, deve andare, c'è, tu vuoi cantare una canzone, scarica l'app che ti fa la canzone. Tu vuoi comprare un panettone, scarica l'app perché ti dà l'app. Oppure devi prenotare una visita all'ospedale con l'app, cioè così, devi fare la banca e ci vuole l'app, la benzina e ci vuole l'app. L'altra volta sono andato in un supermercato, la Despar, dice ma lei ce l'ha la tessera, se no non le posso fare le offerte. Dice no, la tessera non ce l'ho, la faccio subito. No, la deve fare scaricando l'app, così poi le scarica, dice il codice, ma io non ho lo smartphone, dice allora non lo può fare. Eliminato. E allora io su questo scarica l'app, ma è possibile che non hanno fatto un'app per capire chi è a favore del ponte e chi non è? Un'app per capire chi è a favore della guerra o chi è contro la guerra. Cioè le app utili, veramente, quelle che sarebbero utili, non le fanno, l'app della felicità, non la fanno. Fanno le app che devono controllare, che devono andare a mortificare quella modernità che altrimenti sarebbe bellissima se plurima, la tecnologia dovrebbe facilitare. E invece questa tecnologia produce spesso morte, come nel caso di questa capretta. Allora, scarica l'app. T'ha lasciato a bocca amara, se non sei più resiliente. Voi avete capito che significa resilienza? Io certe volte non ci dormo la notte per cercare di capire resilienza che cosa significa. E poi infatti quando tu lo senti in televisione dicono resiliente, come dire, quando uno dice come dire e vuol dire che non ha da dire niente, sono tutti modi. La resilienza, la resistenza, quella lo capisco, la resistenza. No, invece la resilienza, che è un atto passivo, che non si capisce bene che la fa sta resilienza. Io faccio la resilienza, tu te l'immagini durante i partigiani. Cioè, se il 2023 t'ha lasciato a bocca amara, se non sei più resiliente, come dire alla caciara, se la guerra t'ha guastato, il Natale con ormato, se il pandoro ti hai mangiato, non è quell'oggetto nato, se ti manca solo il ponte per entrare nel futuro, se ancor cara è la benzina per andare oltre quel muro, se sei in gabbia nei profili tra le sbarre dei social e se il mondo trasparente ti fa oggi tanto mal. Jean Baudrillard, La trasparenza del male, grande saggio del 1991, che queste cose le aveva preventivate. Se col clima che è cambiato non ci son mezze stagioni, se la banca non fa il mutuo per le arance di limoni, se sei solo nella rete dallo schermo schiavizzato, se le offerte barra truffe te le impone ormai il mercato. Scarica l'app della felicità, scarica l'app che pace porterà, scarica l'app che non ti va incazzare, scarica l'app e il sole brillerà, scarica l'app e niente dovrai far, scarica l'app l'amore tornerà, scarica l'app per l'anno che verrà, scarica l'app e avrai la libertà, scarica l'app della felicità, scarica l'app che pace porterà, scarica l'app che non ti fa incazzare, scarica l'app e il sole brillerà, scarica l'app e niente dovrai far, scarica l'app l'amore tornerà, scarica l'app per l'anno che verrà, scarica l'app e avrai la libertà. infatti questo è, io lo, quando vado a cantare nelle scuole metto questa, questa immagine qua come atto di liberazione. Uno si sente liberato quando si scorda il telefonino, dopo un poco ti preoccupi, dici ma dov'è il telefonino? Dopo 5 minuti, 6 minuti, 10 minuti che sei in giro, che te lo sei scordato, dici, avverto una sensazione quasi di piacere. Ora uno strumento che dovrebbe essere utile, come loro dicono, poi invece diventa uno strumento di costi. Infatti nella chiavetta io ho messo uno che porta il telefonino attaccato al, cioè come se fosse il pallettone che portava nei carcerati. Video dall'inferno, la capretta uccisa ad Anagni. È la capretta stessa che parla in questa ballata, la capretta stessa che parla e alla fine fa gli auguri ai suoi assassini diciottenni. Io stessa non so come, dentro l'agriturismo, come mi venne in mente dare fiducia all'uomo. Forse non c'era luna, sembravano ragazzi, ma a festeggiare erano dei diavoli infernali. Occhio di luna non vede, occhio di luna non brilla, occhio di luna non sente. Occhio di luna non piange. Festa di 18 anni, Danagni e Fiuggi sono, son figli di politici, di sbirri poliziotti. Ed io mi avvicinai, volevo una carezza, magari un biscottino finito di mangiare. Occhio di capra ti ride. Braccia, occhio di capra ti pensa, occhio di capra non scorda. Ma il branco di Caini, calci, pugni, colpi, la mia agonia postarono con i telefonini. Specchiatemi allo schermo, or che m'avete ucciso, delitto condiviso, su un video dell'inferno. Occhio di vetro che acceca, occhio di vetro che ammorba, occhio di vetro che ammazza. Occhio di vetro moderno. La madre con premura disse ma stava male, ed a sti criminali gli mise la corona, ma più fresca d'un giglio. Io invece quella sera ero, e se fossi madre rinnegherei quel figlio. Occhi di madre più madre che persa, occhi di madre più infami, ed occhi senza una madre. Venni per fare gli auguri, lo stesso ve li faccio, che mi avete lasciato carogne in mezzo ai fiori. Grattatevele forte le corna che ci avete, che a 18 anni siete più morti della morte. Occhi che sono vacanti, occhi di morti agghiaccianti, occhi senza l'universo, occhi popolo perso, occhi che sono vacanti, occhi di morti agghiaccianti. senza l'universo, occhi d'un popolo perso. Non diventa, magari si utilizzasse per essere uno strumento di partecipazione, di democrazia, di presa di... No, si subiscono. Io questa cosa l'ho cantata nelle scuole, nei liceari, dicendo che loro a 18 anni sono più morti di me, più morti dei cantastorie che dicono che sono nel passato. Loro sono molto più morti dei cantastorie che nel Medioevo cantavano le questioni. E non lo sa, ma non è che voglio incolpare loro. Dico che sono vittime di una tecnologia di cui adesso vi faccio un pochino di storia, ricorrendo al nostro grande maestro Franco Trincale, che ha scritto tantissime cose, che ha ricordato anche Franco Schirone, e che ha scritto una ballata, ma non adesso, nel 1994, e io poi ho cantato con lui nel 95 a Catania, alle Ciminiere alle Stelle, e lui l'ha presentata, e che si chiama il telefono tascabile, che fa una specie di storia di quello che è successo da quando dal telefono fisso a cui eravamo abituati si passa al telefono cellulare, ma un telefono che addirittura la BIT di Milano, già nel 2006, definivano telefono indossabile. E infatti è quello che sta succedendo, perché ormai siamo tutti, è diventato, cioè prima va il telefono, cioè noi siamo i telefonini dell'uomo, che è il telefonino. Cioè il telefonino viene prima dell'identità, la nostra identità è il social, insomma è una cosa. E allora io, siccome poi ne ho fatta una sullo smartphone, che ve la faccio sentire dopo, che sarebbe la continuazione, lui ha fatto fino all'invenzione dello smartphone. Io dall'invenzione dello smartphone in poi, quindi ho fatto il telefono cellulare 1, le origini, il telefono cellulare 2, smartphone. Allora ve li faccio sentire tutti e due, ma inframmezzate dalla ballata che dà il titolo alla chiavetta, che si intitola appunto, come vi ho detto, L'insostenibile leggerezza dell'app, che riprende il titolo di questo grandissimo romanzo del Novecento di Kundera, Milan Kundera, morto da circa un anno. Il telefono tascabile. Qualcuno se lo ricorderà, quando finisce il telefono fisso e cominciarono le schede ricaricabili. Facevi il gettone non funzionava, allora c'era la scheda che pagavi, anche da casa dovevi cancellare, mettevi il codice, il credito, tutto cominciò da... Beato il telefono e chi ce lo inventò, dicemmo anni addietro, fino a quando non spuntò quella tessera magnetica. In quest'epoca frenetica l'invenzione assai veloce, or l'utente ha messo in croce, il gettone non funziona, la moneta neanche val, ed allora si è obbligato quella tessera a comprar. Ed è qui che sei fottuto dalla team che ti ha venduto servizio anticipato, senza ancor che l'hai usato. Con la tessera magnetica, la certezza è matematica, che in quest'epoca cibernetica la telefonata in chiavica. E l'utenza, poverina l'utenza, certe volte sento passare l'area di utenza anche nei confronti degli studenti, gli uffici dell'università, ma l'utenza, io non sono utenti, sono studenti, che è una cosa completamente diversa. Clienti, capito? E quelli si rivolgono all'utenza, paghiamo e quindi dobbiamo, ma sono impagabili tu le cose che vieni a sapere dei professori all'università. Cioè, è cambiato completamente anche proprio il retroterra, diciamo così. È l'utenza poverina che telefona in cabina, fa la fila da cogliona per la dime mamma pappona, il gettone, il tesserino, non funziona, un gran casino, è lo sconto telefonabile, un telefono tascabile, il telefono tascabile, hanno fatto l'invenzione, è un aggeggino amabile di grande perfezione, il manager in affari ora non dovrà imprecare, perché può telefonare dalla borsa, all'oltremar. Oh, com'è bello, com'è amabile il telefono tascabile. bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla come dire bla bla bla bla bla bla bla la resilienza bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla il territorio bla bla bla bla bla bla bla il vaccino bla bla bla bla bla bla bla la pandemia bla bla bla bla bla bla bla il metaverso bla bla bla bla bla. Anche io lo voglio, è questione di portafoglio, costa il doppio della grana, tutto va in interurbana, non può averlo ogni persona, è per questo che funziona. In futuro poi vedremo come le auto finirà, quando tutti ce l'avremo, allora non lo potremo usare. Oh, come bello, come amabile il telefono da scappelle, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla, trasparenza bla bla bla. Bla bla bla bla bla, l'intelligenza artificiale bla bla bla bla bla bla bla bla bla, gli integratori bla bla bla bla bla, maggior tutela bla bla bla bla bla bla bla bla, il mercato bla bla bla bla bla bla. Anche io il lavoro voglio, è questione di portafoglio. E signori miei, adesso c'è una nuova invenzione, non si chiama più telefono portatile, non si chiama più telefono tascabile, qua il cartellone che è questo proprio fatto da Franco Trincale, ma già bisognerebbe cambiarlo, si chiama il telefono indossabile. Secondo, informatevi, veramente leggete i giornali economici, che perché il problema è l'utilità, l'uso. Il telefono per essere usato ha bisogno di essere sempre disponibile, sempre carico, intanto sempre carico. Carico quindi è una questione di elettricità, ma anche una questione di connessione, perché tu devi essere sempre carico ma contemporaneamente sempre connesso, giusto? Perché sennò che utilità c'ha? Fai come quelli che i primi telefonini che lo utilizzavano come status, facevano le calcolatrici, siccome non se lo potevano permettere, facevano le calcolatrici oppure finto, c'era addirittura quelli che se lo compravano finto per far vedere che loro ci avevano il telefonino, uscirono. E invece il telefono deve... Allora, il problema è quello della ricarica. Ricarica, vabbè, basta mettere la spina, però c'è quando si scarica. E allora i telefonini, ai tempi della ballata di Trincale, c'avevano la batteria intercambiabile. C'erano quelli che avevano due, tre batterie e quindi quando gli si scaricava, aprivano e cambiavano la batteria. È anche vero che però quando tu cambi la batteria, c'è una frazione di secondo, dipende dalla velocità che i giovani, gli anziani potevano avere nel fare questa operazione, leva il coperchio, leva la batteria e rimane scarico per quei tre minuti. E metti che c'è uno che ti telefona in quei tre minuti e tu sei non solo scaricato elettricamente, ma sei anche sconnesso. Allora gli ingegneri hanno dovuto pensare come rendere sempre, sempre utile e quindi sempre carico dal punto di vista delle onde e dal punto di vista dell'elettricità. Hanno fatto tanti studi, tutti gli ingegneri, ma d'accordo anche con i chimici delle più grandi università del mondo, di Michigan, di Princeton, di Harvard, del Politecnico, di tutto, e sono riusciti a trovare una soluzione per poter garantire il massimo della la continuità della carica al telefonino, sfruttando i principi, voi forse ve li ricorderete, della termodinamica. Della fisica, della termodinamica, per cui praticamente il movimento che produce calore, questo calore può essere in qualche modo riconvertito in energia, quindi captato e quindi utilizzato come energia, diciamo così, elettrica a tutti gli effetti. Il problema è come captare questo movimento, perché in fondo dice noi ci muoviamo, camminiamo, facciamo footing, facciamo il trekking, facciamo certe volte lasciamo la macchina perché non troviamo posto e ci facciamo la strada a piedi, anche a casa uno gira, ma perché questo movimento deve essere lasciato inutilizzato? Può essere acquisito come fonte di energia, basta che c'è una sostanza che riesce in qualche modo a recuperare questo calore, a trasformarlo in energia e a circuitarlo all'interno del circuito telefonico che a noi interessa. Allora tutti gli ingegneri si sono riuniti, i chimici, e hanno visto che si sono messi alla ricerca di una sostanza per poter fare, una sostanza che sia particolarmente conduttrice, a base dei materiali conduttori, il litio, il silicio, ci hanno messo un buco di rame, ci hanno messo l'alluminio. Allora c'erano gli ingegneri che dicevano, chimici, ma voi forse dimenticate lo stronzio, perché non ci mettete anche un pochino di stronzio? Vero, voi lo stronzio, gli dicevano i chimici, voi lo stronzio lo conoscete bene, sì, ora che lo mettiamo. E quindi hanno fatto una sostanza particolare che si chiama il piriton di tetron sulfuro, che è male, che è fatto cioè, con adeguate industrie, diciamo lavorato, spianato, rielaborato in determinati modi, può essere in qualche modo composto in forma di sonda. In una sonda che da un lato viene confilata nel basso retroschema schiena dell'essere umano e dall'altro viceversa collegata a un cornino. Infatti, se lo vedete, se mettete la, se Nicolino mi fa la cortesia di mettere l'altra diapositiva, si vede l'uomo con la sonda infilata e l'antennino, perché praticamente questa energia mantiene sempre connesso. Contemporaneamente il telefono intascabile c'ha un altro filo che riconduce sempre a quest'altro, per cui è anche sempre carico. Insomma, hanno inventato il telefono indossabile. Com'è bello, com'è amabile sto telefono indossabile, ha energia cellulare, lo si può ricaricare, e hanno fatto bella apposta una carica in supposta che a forma di sifulo la si può infilare nel culo quando va dalla stazione, tutti gay con st'invenzione. Oh, che bello, che bello, che bello, ora sì che siamo a posto, tu telefono è a basso costo, com'è bello, com'è amabile il telefono da scala, il territorio, bla bla bla, la guerra, bla bla bla, la democrazia, bla bla bla bla, la pace, bla bla bla bla, maggior tutela, bla bla bla, l'impresa, la tecnologia, bla bla. Anche io il lavoro voglio, e questo è di portafoglio, nel frattempo la team e la team sfrega le mani, se la ride come un muro, che il telefono agli italiani gliel'ha messo anche nel oh, com'è bello, com'è amabile il telefono da sta, la scienza, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Anche io lo voglio, è questione di portafoglio. Questa è del 94, quando uscì. Allora, è successo anche un fatto. Queste cose uno le deve raccontare, perché sennò uno pensa al mondo dei cantastorie come un mondo. Allora, negli anni 2000 io una volta andai a cantare in una associazione culturale che si chiamava Anno Luce, che era della figlia del grande etnologo Ernesto De Martino, che aveva questa piccola associazione, Lia De Martino. E ho fatto questa cosa, una conferenza, recital, e a un certo punto era presente uno che poi mi telefona. Dice, ma sai che c'è, però non avevo fatto questa, ne avevo fatto altre. Dice, no, perché noi c'è, io sono della Telecom. Io sono della Telecom. Siccome noi ogni anno facciamo un raduno dei manager, delle compagnie che si rapportano, noi abbiamo una sede che, pensate, nel centro degli scavi archeologici di Veio, quindi a due passi da Roma, scavi latini, etruschi, importantissimi, c'è una villa che aveva, ora non so se ce l'ha, penso ancora, la Telecom, che è una cosa proprio di un kitsch, però costosissima, perché là c'aveva un anfiteatro tutta l'estate. Dice, ma perché non verrebbe, cioè, ci piacerebbe fare uno spettacolo? Ho detto, sì, io ci, perché vado a cantare, basta che non mi dicono quello che devo cantare. Cioè, ed era la Telecom, per cui c'aveva in mente questa ballata. Sono andato lì, ho fatto la Baronessa dei Carini, ho fatto le cose, e poi ho fatto questa canzone. E non hanno assolutamente riso, non hanno assolutamente riso, perché si sono sentiti, era un momento in cui i telefoni andavano lanciati, per cui non potevi irridere, non si può tanto irridere, anche sullo smartphone. Sentite, c'è sempre un atteggiamento di vuoi di paura, vuoi di ossequio, di rispetto, cioè come se fosse Dio. E quindi di sacralità nei confronti di questo strumento. Anche le immagini che ho fatto vedere dello smartphone messo nel water ha suscitato qualche... Dice, ma come, tu metti nel water il futuro? È come se il futuro fosse quello. Capito? Continuo su questo tema, che è un tema centrale della chiavetta, che dà il titolo, ma nella gavetta ci sono anche ballate sulla distruzione del Teatro Nazionale di Tirana, ballate manco io me le ricordo, c'è sulla soluzione di Dell'Utri, De Donno, quelli che sono stati assolti due volte, cioè, e mi ha telefonato il figlio, il fratello di Borsellino, mi ha telefonato dopo aver visto la ballata, perché io ho messo in musica, tra l'altro, le parole pronunciate da Salvatore Borsellino, quello delle Agende Rosse, bravissimo, bravissimo, in cui disse, allora vuol dire che mio fratello è morto assolutamente per niente. Agenda Rossa che non è stata più trovata, che l'hanno rilevata proprio che ancora il cadavere di Borsellino era caldo, a quanto pare presa da un carabiniere. Ora sono stati tutti assolti, i mafiosi condannati perché dice che loro hanno trattato, invece i carabinieri, quelli dei servizi segreti l'hanno fatto, ma l'hanno fatto per sondare se era trattabile oppure no. Insomma, siccome la storia della mafia è disseminata di assoluzione per insufficienza di prove, di assoluzione per non avere commesso il fatto, e questo è l'ennesimo caso in cui bisogna ragionare sulle sentenze, anche se uno non è giudice, ma le sentenze sono fatte pubbliche e quindi come tali sottoponibili anche al giudizio popolare. L'insostenibile leggerezza dell'app. Cantare bella ciao contro i fascisti, tagliare la malerba dobbiamo farlo, ma di continuo in questi giorni tristi, dentro la testa scava sempre un tarlo, un dubbio oscuro fino alle radici, attorcigliate piene di dolori, mi chiedo oggi chi sono i nemici, ed i veri tiranni e gli invasori, è vero avanti pur bisogna andare, allora la bufera col cervello, oltrepassiamo per individuare, chi è il regista del grande fratello, quello che il mondo ha collo di bottiglia, da dove il mare non si vede più, lo ha ridotto e a noi tiene la briglia e ci costringe come già sai tu. Come ci costringe? Con quegli occhi imprigionati dietro ai vetri plasticati e i sorrisi freddi insipidi fatti a cristalli liquidi e carezze assai strisciate sulle foto che van via, con i pixel la memoria se ne va e non fa la storia, è distante chi t'abbraccia senza mani, senza braccia, un mi piace, un non mi piace e il tuo cuor lo metti in pace, ogni tanto dal balcone cerchi il sole dell'avvenire, ma il tramonto è ormai calante ed il sole sorge al levante. La trasparenza è quella del male che t'accarezza mentre sta in poltrona all'ombra del virtuale, del globale, tu ridi, canti mentre ti imprigiona dentro le app a cui tu stai connesso, che tutto sanno ciò che vuoi che fai, sono utili tu pensi ed il permesso di uscire a loro chiederlo dovrai, ci siamo venduti e c'è chi ci ha comprato e per qualche clic ha tutta la regia, e chi quell'app non ha scaricato è colpa sua se viene la pandemia, che infatti già ci ricontornerà, d'immuni nessun più potrà star senza, la porta ormai sfondata resterà e noi mai più faremo la resistenza. E c'è chi con leggerezza ogni app accetta e apprezza, ride con ipocrisia, spaccia per democrazia il presente digitale, dove ognuno è tale e quale, obbediente, trasparente, in un mondo divertente, in cui tutti siamo infetti, in cui tutti siamo sospetti, dove c'è chi alza i cost e tu mandi solo post. Fra i suoi debiti e gli stenti muore tra gli aggiornamenti, ma le app vogliono proibire il diritto di morire, di lottar contro un nemico che non è più quello antico, e di far la resistenza al regime della scienza. Sì. Boh, però la, questa va fatta perché l'ho annunciato. Smartphone. Scusate se sono accanito, ma secondo me bisogna essere accaniti. Nelle scuole, sulle scale, nelle strade, nelle chiese, dove vuoi tu, smartphone, mentre senza freccia tu sorpassi chi c'è, mentre stai guidando e dietro culli il bebè, mentre senza strisce tu attraversi e con l'auricolare sotto casa il tuo pane, senza Google non puoi comprare. Quanto costano le uova? Serve un'app per confrontare. E per il tabacchino, cerca subito il più vicino. Alla fine del pranzo c'è un alert per farti cacca cacca cacca cacca cacca cacca cacca cacca cacca cacca cacca cacca cantare. Smartphone, mentre sto il butter tu fai il fai da te, mentre ti insaponi a cavallo al bidet, mentre le tue mani poi lavi e strisci la combinazione. Smartphone, quando ti riposi e ti piglio caffè, quando la tua donna se ne va con chi c'è, e quando resti solo solo solo solo solo solo solo solo solo solo solo solo solo solo solo solo solo solo solo solo solo solo solo solo solo solo, ma con l'auricolare. Somiglia ai contatti, ogni giorno sul tuo profilo, tu sei al centro del mondo, e con Facebook sei più giocondo. Quante belle ragazze ti domandano l'amicizia, e ti senti un pascià, un mi piace, un I like, e le puoi trombare. Facebook, quando c'è il tuo amico che tua moglie si cucca, quando un vero amico c'è chi che non fa trucco, quando sulla macchina un bel graffio la trovi e te vuoi sfogare. Facebook, quando c'è una muta che ti lascia di stucco, quando paghi l'IMU come un mammadù, quando il tuo cuore bomba che però non sa scoppiare. Che c'è, che c'è, che c'è, che c'è, non lo vedi che c'è? Devo andare, devo fare un bisogno naturale, devo andare, c'è un water qua, è un'urgenza, certe volte uno lo trova, prima c'erano i Vespasiani, c'è, no, non ti devi preoccupare, ce l'hai lo smartphone, sì, e allora scarica l'app, ritorniamo alla parola di ritorniamo alla parola del film, capito? Vedi com'è il circuito, siamo chiusi in un circuito telematico, è una gabbia telematica, perché non è che ti puoi rappresentare come vuoi, ti devi rappresentare come dice Facebook, come dice Zuckerman, cioè come si chiama, cioè non ti preoccupare, scarica l'app, c'è la Pish App che ti dice esattamente quali sono i bagni, ti dà la lucetta verde, la lucetta rossa, che tu dici sei occupato oppure no, esattamente come sono i monopattini, come sono le biciclette, e quindi dove farla se scappa, te lo dice la tua Pish App, senza alzare il gap. Quante amici c'hai su WhatsApp, dall'Australia asiatina, quanto è bella la nipotina, e poi dal Canada, lo zio Peppe si mette a cantare. WhatsApp, quando nella notte ti risveglio paesa, quando la tua amante ti ha mandata a caca, e quando parli scrivi, scrivi, parli, scrivi e senza dire niente. WhatsApp, quando stai rinchiuso davanti al TV, quando il compleanno non festeggi più tu, e quando mandi un selfie mentre fai l'estrema unzione. Smartphone, sfiora, sfiora l'app, pagherai quando vuoi, fai aggiornamenti se lo so cazzi tuoi, posta la vicina nuda prima di dormire. Smartphone, e ora tutti sanno se sei qui oppure lì, se fa la pupù oppure pipì, perché ci manca solo che ora la pitch up ci deve dire che se uno fa che tipo di bisogno fai, perché quello ci vuole anche una luce per segnalare il tipo di ingrombo, di quanto l'inquinamento, di quanto, insomma, ci si arriverà anche a quello. Smartphone, e ora tutti sanno se sei qui oppure lì, se farò pupù oppure pipì, ormai per tutto il mondo tu sei solo un gran smartphone. Ultime due ballate cortissime, una dedicata al ponte e una dedicata ancora una volta al nostro maestro. Vabbè. Perché Baltimora come Messina, è crollato il ponte, adesso non è che è uno dei disastri geologici, cioè ambientali, naturalistici, culturali, è una zona naturalmente protetta, però questa volta l'essere naturalmente protetta non vale. Io non voglio entrare nella vicenda perché sennò cominciamo a parlare e non finiamo più, ma il fatto che un ponte a Baltimora sia crollato per una nave che c'è andata e sono morte due persone e quattro dispersi, il fatto che a Minneapolis, la capitale del Minnesota, sono morte 60 persone nel 2007 per il crollo del ponte, il fatto che a Genova siano morte 43 persone, il fatto che a Sutri nel 1960 siano morte 10 persone per il crollo del ponte di Sutri, insomma c'è una, io ho dedicato questa ballata a tutti i morti sui ponti, tra l'altro nel mito il ponte del diavolo, il ponte di Arta, il ponte di San Giacomo, il ponte, cioè, due romanzi straordinari, uno del premio Nobel della letteratura, il bosniaco Ivo Andrić, il ponte sulla Drina, grandissimo romanzo che fa vedere come i ponti siano strumenti di invasione e i ponti spezzati, i ponti bombardati, insomma, e l'altro il ponte a tre archi di Ismail Kadare, grande scrittore albanese, insomma la letteratura, nonché in campo antropologico Lombardi Satriani, il ponte di San Giacomo, il ponte del diavolo di Alfonso Maria di Nola, grande folclorista e studioso di storia delle tradizioni popolari. Il ponte sul fiume Quai, ma quanti ce ne sono? Il ponte Imera, quello che è crollato sull'autostrada Palermo-Catania. C'è una, e quello è, e quello lo vogliono fare in un'area che al di là del fatto culturale. 1908, terremoto in Messina. Esatto, sì, sì. La Sicilia si allontana di un millimetro l'anno, che è una enormità, si allontana e contemporaneamente si slitta in questo senso e va verso nord, quindi ci sono pressioni perché ci sono almeno una decina di faglie sotterranee più i venti, perché i venti quest'anno hanno dovuto chiudere due volte tutte e due le autostrade per il vento fortissimo che c'è là, la zona di Eolo, i greci già l'avevano, il ponte elastico dice che sono... Sinnisciti di ritani voi due ponti, questo è in dialetto, non vi serve vambucciati in tastiorna, quando ognuno in taso testa fa confronti, mentre pensa come morio e chi non torna a Baltimora, basta una sulla botta, e lu ponti si sciaccau come un ricotta. Baltimora basta una sulla botta, e lu ponti si sciaccau come un ricotta. Ma di sutta sta ricotta mare dura, vinti corpo a ristaru senza ciato, e noi grazie sparti a Dio con gran premura, ama dire che non fu un vero massacro. Talo mari ora scurri alla deriva, sangue rosso vivo fresco di sorgeva. alla deriva, sangue rosso vivo fresco ti sorgiva, e l'America si senti un paese che non vali, e l'America si penti di l'antico suo ideale, di la smania di progresso, di la tecnologia che ora affonda con i ponti e finisce la magia. Puro lo vecchio ponte broccolino, vantu e dolori di progresso umano, li ornavi contati tu destino, se l'America non barallo piano, per rinforzare tutti i fondamenta e sostenere lo traffico che aumenta, per rinforzare tutti i fondamenta e sostenere lo traffico che aumenta. In America, Minneapolis, Bruccolino, e voi dopo a Messina, a Messina, a Messina catafari, e voi dopo a Messina catafari, una campata, chi taglia lo stretto, unni la terra trema col mare, mentre a voi non ve passa l'upititto, la siti di appalti a fondo perso, e tutti i sordi che fottiti all'universo, la siti di appalti a fondo perso, e tutti i sordi che fottiti all'universo. E sto ponte maledetto non ne unci e manco unisci, sotto all'acqua di lo stretto c'è chi mangia tutti i pisci, c'è chi grassa e così svina e non tornano i conti, e la morte si incammina per passare sopra i ponti. E sto ponte maledetto non ne unci e manco unisci, sopra l'acqua di lo stretto c'è chi mangia tutti i pisci, c'è con grassa e così svina e non tornano i conti, e la morte si incammina di passare. Ora si sta incamminando, prima ancora che lo costruiscono, sa, la morte non è che ha te, non è che ha premura. Di passare sopra i ponti. C'è l'ultimo pezzo tuo, poi la vostra. Perfetto, ce la facciamo. Sì. Sì. No, più altro, poi chiediamo di uscire, che mettiamo giù i tavoli e poi due brevissimi parte con l'aperitivo. L'aperitivo che poi ho orzo, c'è una cosa con l'altra comunque. Allora, questa la voglio fare perché è una collaborazione, perché siamo io, Tiziano e Franco Trincare, questo è creato un nucleo, diciamo così, di ripresa di questa cosa. Allora, perché il bello dei cantastorie è che uno è l'autore, però queste ballate poi continuano a trasmettersi da uno all'altro e nel frattempo le cose vanno avanti, certe volte non migliorano e quindi sono, rimangono sempre d'attualità certe cose, e però vanno aggiornate, allora ci sono gli aggiornamenti, e quindi è un seguire il futuro, un seguire la cronaca, e aggiustando, integrando ballate che tu pensavi praticamente, cioè, che ne so, la baronessa di Carini stessa, oggi in tema di femminicidi ritorna di un'attualità sconcertata, Pia de Tolomei, cioè, dantesca Pia de Tolomei, e in termini di femminicidi ritorna di un'attualità sconvolgente, eppure una cosa che avviene nel 1200, e questa è anche d'attualità. Io ho fatto un aggiornamento a quella di Trincale e voglio finire con questa, e poi finiamo assieme con Maria Occhipinti, grandissima donna anarchica, cioè che organizza questo movimento del non si parte durante la Seconda Guerra Mondiale, ma vi dirà meglio Tiziana. Si chiama Il Terrestre. Il Terrestre. Sono un terrestre, abitante nella terza parte del mondo benestante. Mangio in abbondanza, tengo una bella panza, ho il colesterolo, trigliceridi, diabete, la spesa faccio in rete, mangio scatolati, surgelati, transigenici, insaccati, pesci di ogni razza, carne di mucca pazza. Sono un non violento, per nulla mi spavento, mi chiamano buonista, cristiano di sinistra e faccio con devozione la mia buona azione per i bimbi che ha fame nell'altro reame. Sono un terrestre, grande consumatore, che mangia senza grassi, oli, zucchero e lattose, tutto light, tutto free, odio i coloranti, iperdolcificanti, emulsionanti, nitrati e bisolfiti, pesticidi ed antibiotici, che vive di probiotici, che tiene al macobriota e mangia uova fresche fatte a terra, doc e bio, dal mulino tutto bianco, attaccato alle mammelle criminali e imprenditoriali dei centri commerciali. Sono un terrestre che vive di bassezza nel mondo dell'agiatezza, producendo immondezza che con gran certezza sa che sta schifezza al fin ci ucciderà, ci ucciderà. Mi odio e odio i ricchi paperoni di casa nostra e fuori, i Bill Gates, i Virgin, i Kuhn, i Zuckerberg, quelli dell'ultima ora, quelli che finanziano la ribellione sonora, quelli dei palchi in piazza che caltano l'altra razza, con Dalla e De Gregori, mentre la guerra è fuori, i moderni Garibaldi, pieni di miliardi, quelli del profitto uguale delitto, quelli della ricchezza, la ricchezza finanziaria che fa morire di fame la gente proletaria e noi ci danno la morte a già della grande abbuffata. Sono un terrestre abitante qua nel mondo benestante che porta le mutande al collo la sciarpina, in tasca vasellina, bandana ed orecchino, ma senza far casino, mi raccomando, un buon lavoro sicuro, bello certo, con il cuore ben coperto, in 50 metri quadri, 3 televisori, in cucina, soggiorno a letto, perfino al gabinetto, segreteria parlante, computer stampante, sveglietta luminosa, idromassaggiatore, stimolatore elettrico, frigo congelatore, videoregistratore, bidone aspiratore, è grigio trasparente, umido in canna, non ci capisco niente, riciclo l'immondezza, produco anche schifezza, la prostata ingrossata, il colon irritato, il fegato marcito, il cuore un po' stressato, sono super impegnato, siliconato, surriscaldato, plurivaccinato, globalizzato, super robotizzato, sempre super connesso, perfino anche nel cesso, ho in mano la catena per il cesso, no, ho in mano lo smartphone. Perché? Perché non son coglione. Credo nel metaverso, ma non nell'universo. Ho fede nella scienza e nella mia intelligenza, che non è quella naturale che ci abbiamo. Credo di più nell'intelligenza che ci abbiamo fatto, nell'intelligenza che oggi si chiama artificiale. Perciò son fortunato, appartengo al mondo ricco, almeno così mi han detto. Sei fortunato perché sei nella NATO, dall'Europa per protetto, nel mondo del profitto, dall'America imperiale con lo scudo spaziale. Ma se faccio la somma, pacato e a mente fredda, mi accorgo che alla fine io vivo nella merda. Mario Occhibini. Racconta. Maria Occhipinti, io l'ho scoperta leggendo il libro Una donna di Ragusa, che racconta che questa donna, insieme alle altre compagne del suo quartiere, hanno fermato la guerra perché arrivavano ancora le cartoline precetto per ricostituire l'esercito italiano nel 44 e gli uomini, i ragazzi ritornati dal fronte da poco tempo non ne avevano proprio assolutamente voglia di ritornare ancora a combattere e crepare per la patria. E lei insieme alle sue compagne si è sdraiata per terra e ha impedito ai camion di rastrellare questi giovani e gli uomini di Ragusa. E ha dato vita con questo gesto al movimento non si parte, che si è poi esteso in tutta la Sicilia. Maria Occhipinti è il titolo anche